Questo è Radio 24 che trasmette la passione. Ogni Fox 24 come il calcio di un pallone. Siamo tutti convocati in quest'Italia. Scrivi Radio 24 sulla tua maglia. Tutti convocati di Carlo Genta e Pierluigi Pardo. Franco Piantrini, dottore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia. Maria Pia Vas Beltran da Sochi, ciao. Buongiornissimo a tutti quanti voi da Sochi, buongiorno. Cantami l'inno delle Cayman Island, che è questo, senti. Mazza che palle. No, perché io ho un nuovo idolo, sono finalmente riuscito a trovare uno che mi piace. Uno sport che ti piace, dai. No, non uno sport che mi piace, uno che mi interessa, cioè un personaggio che mi sembra interessante. Doe Travers. E cosa fa questo? Ti manca? Racconti un po'. Come hai visto la cerimonia di apertura? Portava la bandiera dell'isola Cayman in Bermuda rossi e infradito. Ah, era lui, ho capito. Infatti era i personaggi che mi avevano colpito, quelli poveri, cioè non me ne vogliono, sfigatini, nel senso che sono in pochi a rappresentare la loro nazione. Lui è il venezuelano, adesso mi dici che era delle Cayman, ve li ricordo bene. Era da solo. Bravo, sai come lo chiamano? The Ginger Ninja. Capito? Ci sta tutta. Lui fa il gigantista così a tempo perso, perché in realtà preferisce giocare a rugby. Esatto, venendo dalle Cayman Islands, che secondo me ci sta meglio il rugby, che non è. Sì, in linea di massima non hanno grandi montagne, ma poi questo inno, mamma mia, è uno dei più noiosi in assoluto. Vabbè, cambiamo canzone, dai. La palla, proprio. La palla. Senti questi, muore. The summer deal, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say, could you write a song for me? I say I'm sorry about you that I believe. When I go home, I tend to close the door. Enrico, intervisterò il presidente della FIS, Federazione Italiana Sci, Sport Invernali, eccetera, e glielo dice in faccia che cosa? Che mi annoia le Olimpiadi? Ma no, non è vero. No, io lo faccio anche, non ho mica problemi, ma non è che mi annoiano, è che non impazzisco per certi sport, ma posso dirlo? Cioè, curling è una palla, come l'inno delle Cayman Island, anche se in due giorni le competizioni sono anche abbastanza diluite, quindi sì. Possiamo anche darti atto che sì, un pochino di noi dietro. Mi piacciono molto Risce Mancuso mi piacciono molto, le vedo oggi a pagina 19, ad esempio, sì, sì. Dello sport, loro mi piacciono. Ma questa canzone non è casuale, sei pronta per il trivial? Pronti? Allora, quanto vale una medaglia d'oro italiana? Bella questa domanda. Abbiamo appena finito di scrivere un pezzo tra le varie cose che stiamo facendo, sì. Perché l'Italia rimane tra le nazioni, insomma, abbastanza dietro per quanto riguarda questa classifica. Sono 150.000 euro il bronzo. No, aspetta, io leggo un'altra cosa. L'oro, perdonami. L'oro. Beh, siamo terzi in classifica. Io leggo invece che siamo terzi in classifica, perché... Perché dipende che classifica hai visto, perché ne sono uscita un po' in questi giorni. Ah, sì. E trovandomi qui ho avuto la fortuna di andare direttamente alla fonte primaria, no? Perché sai che quando si fa, purtroppo, quando si fa giornalismo ci sono alcuni dati che circolano e tutti li riportano, soprattutto dal web. E quindi sono andata comitato per comitato proprio a chiedere quanto si pagano le medaglie. Per esempio, un'altra bufala che era uscita era quella dell'Azerbaigian, che avrebbe pagato 510.000 dollari la medaglia d'oro. Invece non è vero. E invece non è vero, perché in realtà non hanno ancora deciso, lo faranno al termine dei giochi. La classifica che io è: primo Kazakistan, seconda Lettonia, terza Italia. Kazakistan 183.000, Lettonia 141, Italia 140.000 per l'oro. Poi per l'Italia sarebbe 75.000 per l'argento e 50.000 per il bronzo. Ti risulta? Esatto, l'Italia sì, esatto, l'Italia è perfetta. L'Italia è perfetta, però non siamo terzi in classifica. Aspetta che controllo i dati così li sto prendendo anch'io. Sì. No, hai ragione, siamo terzi perché Kazakistan primo, Lettonia anche il secondo e l'Italia terza. No, quindi siamo sul podio per quanto riguarda il valore delle medaglie. Quanto paghiamo ogni medaglia? Oggi si è risparmiato, visto che non c'è nessuna medaglia, si è esatto. Risparmiato assai. Tra l'altro ieri sono stata a Casa Italia incontrando anche il presidentissimo del CONI, che era proprio in gran forma perché girava da un tavolo all'altro facendo un po' il burlone. Leggo anche delle cose, ovviamente aveva di che festeggiare perché con due medaglie già conquistate nei primi giorni di competizione, insomma è abbastanza tranquillo. Sì, leggo anche delle cose che mi insomma poi per primo Nora vuoi sapere? Per esempio allora, numero dei preservativi distribuiti agli atleti. Quanti sono? È record, eh? Record è olimpico, record olimpico assoluto. Quanti sono? Vuoi saperlo? 100.000. Vado a fare una ricerca per vedere se fai una ricerca. 100.800, media di 35 a testa. Secondo fonti vicine al comitato organizzatore, a Londra furono 150.000. Mm-hmm. Ma quelle erano Olimpiadi estive, quindi con 10.000 atleti. Nel rapporto vince Sochi. Ah, vince Sochi perché certo ci sono meno atleti. Certo. 100.000. Poi leggevo anche altre cose, per cui ci si diverte parecchio lì. Ci si diverte parecchio. Leggevo vari articoli. Devo dire che il paesaggio di mare con le palme, le temperature che ci sono in questi giorni sono oggettivamente da divertirsi, capito? Ascolta. Non c'è proprio il grigiore che uno si immagina magari nell'inverno russo. Un'ultima cosa, a quanto viene dai bagarini un biglietto per vedere la Russia dell'hockey? Russia dell'hockey, tra l'altro sarò presente Russia, Stati Uniti, i bagarini però non lo so. Ah, vai a Russia e Stati Uniti? Raccontami. Vai a Russia e Stati Uniti? Sì. Puoi fare degli affari, 3.000 euro. Mica male. 3.000 euro? Sì. Euro? Sì, euro. 3.000 euro per vedere dai bagarini per vedere questa partita. Tra l'altro dicono che i biglietti ci sono, perché sì, no, non c'è il pienone esatto. Perché ti confermo anche la cerimonia di inaugurazione dove comunque era tutto pieno, per quanto riguarda il pubblico pagante, quindi non volontari eccetera, all'interno dello stadio non c'era l'impressione che ci fosse la resta della gente che pagava. C'erano tantissimi volontari da tutte le parti, anche all'interno dello stadio, ma non anche in giro camminando per le strade. Sì, sembrava lo stadio di Cagliari, tra montagna e mare, più o meno. Sicuramente la tifoseria impazzita. Non c'era tutto esaurito, sembrava più o meno lo stadio di Cagliari, come dicevo prima. Maria Pia, grazie, buon divertimento, fa la brava, ciao. Sempre. Sentiamo a dopo. Presto, grazie. Ciao, Carlo, ciao. Tutti convocati. When I saw my deal, I felt pressure. Don't wanna see the numbers, I wanna see heaven. You say could you? E oggi ci vorrebbe Barisoni o Monica Lodi da Radiocor, che sentiremo dopo per la borsa tra poco. Perché da Paperopoli, non paperissima, zio Paperone Pierluigi Pardo. Infatti sono altamente deluso, signor Pardo. Attento, signor Pardo. Ciao. Ma per la Champions, dici? Ma non ho fatto io, No, ho capito, però voglio dire, ho 700 milioni, prendi 7 Gareth Bale. Mi sembrano troppi, Questo leggo, voglio dire, anche ieri Monica Lodi ha detto 700, poi io te l'ho detto in diretta, tu dicevi, ma non lo so, oggi lo leggo su tutti i giornali. Però chiaro, più, in realtà sono due pacchetti, no? Sì. Tutto, rispetto alla configurazione che c'è, per esempio, che varrà l'anno prossimo, no? Uh-huh. Con la divisione di un pacchetto per 15 partite, diciamo, tutte tranne la principale e il pacchetto invece del chiaro, qui invece sono tutte e due insieme. Ma a noi quanto viene? Quanto ci viene a noi? A me e a te? A me pochissimo. No, a me fa molto piacere, chiaramente. Ci mancherebbe. perché credo che comunque è la competizione che sposta gli equilibri, che alla fine emoziona, che mi piace di tutto, insomma. Poi chiaramente l'Europa League è il calcio più bello che c'è, dai. Però il calcio al quale possiamo ambire tutti è quello lì, la Champions, l'idea poi che per la prima volta una sola televisione abbia tutto, sì. È la prima volta che succede nella storia editoriale italiana, beh, questo è sì, anche se l'impressione, capolo, anche se l'impressione Pierluigi, al di là dello scherzo, è che sia ancora una partita da giocare, perché poi vediamo cosa succede l'anno prossimo Sky e poi ovviamente diretti a Mediaset. Però no, l'anno prossimo Sky ha tutte le partite tranne una, che però è la principale del mercoledì, e l'anno prossimo Mediaset ha tutta l'Europa League in esclusiva al momento. Quindi tanto per fare una simulazione, adesso poi facciamo partire gli spot, tanto per fare una simulazione, l'anno prossimo diciamo che in realtà delle italiane, se finisse così, Mediaset avrebbe tutte le partite tranne una. Sì. Fra andata e ritorno, quante italiane ci sono ancora in corsa? 5. Fra andata e ritorno, 9 partite su 10 sarebbero su Mediaset e una su Sky. Sì. Questa è fredda cronaca. Poi magari faranno l'accordo, non lo so, io con Sky ho rapporti eccezionali, ma... li sentiamo tutti i giorni, ho trasmesso prima Federico Ferri, Riccardo Trevisani. Cosa dicono? No, vabbè, ma adesso questo se vuoi chiamali. Voglio dire che poi alla fine le persone, questo perché uno magari pensa, no, alle guerre di religione, invece no, poi le persone si conoscono, si apprezzano. No, ma questo è normale, certo. Spesso sentiamo Luca Marchetti, sentiamo lo zio Bergomi che magari ci sta anche ascoltando. Non è mica come tra Inter e Juventus. Ma in realtà anche fra i calciatori poi ci può essere un rapporto, no? Poi uno gioca in una squadra e uno gioca in un'altra. Anzi, loro hanno venduto Pardo e Foroni, ma cioè, si fanno mica come tra Inter e Juventus. Senti, vorrei continuare a parlare di soldi invece con te, ma non perché l'ha fatto anche Mourinho. Poi vi faccio sentire un Benitez interessante di oggi, che secondo me vi stuzzica abbastanza. 800 24 00 24. Però allora, Mourinho adesso ha trovato un altro interlocutore che secondo me lo fa a pezzi, l'ingegner Pellegrini, allenatore del Manchester City, il quale, sai la storia, Mourinho ha detto siamo un cavallo piccolo, quest'anno non vinciamo niente eccetera, va a casa del City e vince, adesso è primo in classifica, l'Arsenal prende 5 fischi. E Pellegrini ha risposto: ah, bene, un cavallo piccolo, con tutto quello che spendono anche al mercato di gennaio sono diventati ricchi. Mourinho ovviamente non l'ha lasciata passare. Figurati. He's an engineer by academic formation, and I don't think an engineer needs a calculator to do Mata 37 more or less, and De Bruyne 18 is 55. Matic is 21 and Salah is 11 is 32. 55 minus 32 is 23. Rimangono in cassa in mercato di gennaio inattivo. Pellegrini è un grande allenatore e fuori dal campo un ingegnere, quindi con studi scientifici alle spalle. Non penso che un ingegnere abbia bisogno di una calcolatrice per fare due conti. Con la vendita di Mate e De Bruyne, 55 milioni di sterline, acquisti di Matic e Salah, ne sono usciti 32, 55 meno 32 sono 23. Ha ragione, sì. Il punto focale di questa discussione è Mata, sì. Che nel mercato di oggi vendere, ma anche quello di ieri, probabilmente anche quello di domani, vendere bene è importante come acquistare bene. E quindi il colpo della cessione di Mata, secondo me, è il capolavoro del Chelsea di quest'anno. E quindi poi alla fine questo cavallo piccolo addirittura ha recuperato dei soldi con questa doppia operazione. Piccolo, ma il Chelsea non è un cavallo piccolo, no, Mourinho lo sa perfettamente, certo. Mourinho lo sa perfettamente e sta facendo i suoi mind games, però lì sai, adesso Ferguson non c'è e Benitez è andato, a proposito di Benitez, è andato via, quindi fa fatica a trovare interlocutori. Beh, Pellegrini secondo me, cioè non c'è partita Mourinho-Pellegrini secondo me, dialetticamente, ma probabilmente neanche in campo. Benitez, dicevo, allora, vigilia di Napoli-Roma, ritorno di Coppa Italia, senti cosa ha detto. Una risposta: a fare un gol legale più che loro, perché qualche volta dicono no, fare un gol di più, no, un gol legale, puoi fare tre, ancora non si vince. Hai capito? 800240024, come vi pare Benitez? Cosa serve domani? Fare un gol legale più della Roma? Ovvio, riferimento puramente voluto è quello al gol di Gervinho all'andata. La legalità. Guarda, la mia sensazione è che Benitez si stia un po' italianizzando. E questo non, forse non è un gran complimento, no? Nel senso che comunque poi alla fine se c'è una cosa della quale siamo ammalati tutti è il complottismo, il pensar male e fermarci per polemiche infinite sui gol in fuorigioco. In questo siamo molto latini. Beh, però il legale non è male, eh. Cosa serve? Un gol legale più della Roma? Ma mi fa impazzire Benitez in questa. La verità è che serve pure un gol illegale, perché senza illegale è più divertente. O no, come dicono molti, ma il sogno, rigore che non c'è al 91esimo, cioè è questo nella perversione del calcio. Mentre lui lo vuole legale e dice perché certe volte non basta un gol, si vuole un gol legale. E quindi Benitez domani è questo che chiede ai suoi. Io ho questo messaggio, tutti convocati, buongiorno. Qualche giorno fa, dopo il gol nel derby con il Genoa, magnificato, spalleggiato dall'attore tifoso Corrado Tedeschi, le doti di Maxi Lopez, eccetera. Oggi Suki Vandanara dipinge Maxi Lopez in modo assai meno poetico e romantico di quanto non abbia fatto lei con Tedeschi. Forse doveva essere più prudente dei suoi giudizi. Intervista a chi? Non ho mai tradito mio marito Maxi Lopez, lui invece l'ha fatto con tante donne, persino con la governante, mentre io dormivo in un'altra stanza. Quando mi sono innamorato di Mauro Icardi, il nostro matrimonio era già finito. Ma che cos'è? Sono i B-movies, tra l'altro strepitosi degli anni 80 con Alvaro Vitali, queste robe qui, gli anni 70-80. E Vandanara, posso dirti? Lascia stare. Lascia stare, ti faccio sentire Raffaella Fico invece. Mario, voglio dire, come papà, sarà presente come è presente adesso nel Milan o come papà farà il panchinaro e sarà un po' assente? No, io credo che sarà un bravo papà, dai. Presente però? Beh, l'ha detto lui e sono sicura che lo metterà in atto. Dunque, questa è Raffaella Fico che ha preso il tapirone. Quindi diciamo Mario sarà un papà presente, eccetera eccetera eccetera. Moratti vorrebbe anche un Toiro un po' più presente, l'ha chiamato di nuovo. Che consigli spesso dà a Toir? No, l'unico consiglio è se può essere più presente e di avere qui delle persone di cui lui abbia il 100% della fiducia, perché solo così queste persone possono trasmettere poi fiducia alla società. Questo è l'unico consiglio che posso dare. Quindi lo chiama ancora, ma vieni per favore, vieni, sii presente nella nostra vita, nella quotidianità. Ieri Moratti era veramente uno contro tutti, perché mi sembra che abbia avuto parole per tutti, insomma, anche nei confronti dei tifosi accusati di averlo appoggiato fino a un certo punto nella vicenda Calciopoli, che rimane sicuramente un nervo scoperto per Moratti. Io, i più attenti e gli abbonati Sky forse si ricorderanno di una mezza discussione che in realtà poi abbiamo chiarito subito, e che anzi poi ogni volta che incontro Moratti mi continua a dire: mi raccomando, lo facciamo quella volta lì, però poi alla fine la cosa è stata risolta. Però nel post partita di Inter Bayern a Madrid, insomma, su quell'argomento lì io volevo fargli proprio una domanda, perché quello era un momento di rivincita per lui, no? Su tante cose che aveva passato, su un'immagine di presidente spendaccione che vinceva poco, però lui su quella cosa lì proprio non, evidentemente è un nervo scoperto. No, ti dicevo, mi sembra che ieri abbia avuto parole molto polemiche nei confronti di tutti, nei confronti dei tifosi, che non l'hanno supportato su questa battaglia, e anche nei confronti di Toir. Cioè, alla fine Toir è il socio di maggioranza. Certo, ma no, ma poi guarda, ti è dico, il socio di maggioranza che è lontano, è il socio di minoranza che è vicino, parla tutti i giorni. Bravo, esatto. Per carità, un'incongruenza. Sulla buona fede di Moratti, sull'interismo di Moratti, sul fatto che tutto quello che dice e che pensa lo dica semplicemente per il bene dell'Inter, su questo non ho dubbi, perché lui è un tifoso innamorato, pazzo della sua squadra. Questo è chiaro. Se dice questa cosa è perché la pensa e perché pensa sia utile. Però forse gliela potrebbe dire al telefono, perché certamente, sennò alimenta una polemica. Certamente, ma certamente, infatti ci sono molti ascoltatori che scrivono: vabbè, ma perché continua a parlare Moratti? Ma proprietario, ha detto cosa continua a dire Moratti? Ma non è ormai fuori. Allora, abbiamo la borsa di Sasha, Monica Lodi, che ci dice qualche altra notizia, non lo so, adesso sentiamo. Senza soldi non si mangia presto. Seguiteci su Twitter @tutticonvocati. convocati. Mi si è preso il microfono. Pierluigi Pardo naturalmente collegato. 800 24 00 24. Che ne pensate delle parole di Benitez su serve un gol legale più della Roma? Ma cioè chi ci rimprovera? Ma scusa, voi come un'unica notizia sulle Olimpiadi parlate dei preservativi e non date notizie sui risultati. Però in realtà abbiamo dato un po' di numeri, oltre a quello del numero mostruoso dei preservativi distribuiti agli atleti, anche quello relativo al fatto che l'Italia è terza in classifica per pagamento delle medaglie con un loro che vale 140.000 euro. E poi se volete vi dico anche che nel freestyle ha vinto il canadese Alexander Bilodeau nel titolo olimpico di Gobbe nel freestyle, mentre la canadese 19enne Dara Howell è la prima campionessa olimpica di slopestyle, gara delle palle di neve, qualificazioni in corso. Senti, sì, sei uno sporcaccione, gente. No, però a parte questo, ti devo dare una notizia. Mi è arrivato un messaggio di mia mamma, che è una grande ascoltatrice, sì, quasi come lo zio Bergomi, sì, che dice che non ne può più di sentir parlare della FICO. E quindi a questo punto, uh-huh, a questo punto io mi astengo da qualsiasi cosa. Basta, usciamo da questo argomento. Sì, ma io non volevo più parlarne. Ah, no, no, vabbè, no, volevo dirtelo. Volevo parlare di economia. Sono in silenzio stampa, approfitto di mia madre chiaramente per esprimere, sì, per portare avanti la mia sì. No, volevo parlarti di economia perché stamattina, dica, ho letto, Monica Lodi non ce l'ha raccontata, però Fiorentina-Juventus, che potrebbe essere anche anzi ci auguriamo sia una infuocata doppia sfida di Champions League, insomma è già cominciata, sai? Sì. Della Valle contro Elkan stamattina, sai cosa ho detto Della Valle? No, anzi Elkan su Della Valle. Non penso possa pensare che Della Valle abbia preoccupazioni su RCS, penso che la Todd lo preoccupi, la Todd va male, è giù del 20 da inizio anno rispetto ai suoi concorrenti Prada, Armani, Louis Vuitton, Kering, è un nano, l'azienda di piccole dimensioni non sta andando bene, Fiorentina, Juventus, auguri. No, senti, invece... Beh, lì vedi, è uno dei più clamorosi intrecci di calcio e così, di azienda, ma e è la dimostrazione del fatto che poi per il calcio si possono anche rompere delle amicizie o quantomeno insomma magari acuire delle inimicizie, perché lì dalla vicenda Berbatov in poi lì c'è proprio un mescolarsi della rivalità fra le società e la rivalità fra gruppi dirigenti e fra... Ma poi hai ragione tu, Pier, il calcio è lo show, il contesto più pop che esiste, in cui questi intrecci, ma per questo, insomma, noi ci scherziamo, Raffaella Fico e l'economia, i grandi personaggi, no, sto parlando io... Insomma, fa tutto parte di questo carrozzone. Però io volevo parlare di Conte perché, insomma, ascoltatori che scrivono: ah, a Vinovo hanno rispolverato il frustino. Capello adesso, a proposito di soldi, l'allenatore più pagato del mondo, 10 milioni l'anno, CT della Russia, appena rinnovato, ha prolungato il contratto, si sta divertendo come un matto dal suo buon ritiro a tirarne di botte qua e là, perfino a Conte. Io non avevo mai fatto la cosa che ha fatto Conte, perché questa è una squadra che sta facendo molto bene, sta dando tutto. Ho letto che lui non ha concesso un giorno di riposo. Non sono mai stato per queste cose, io i castighi non li ho mai dati, non mi piacciono i castighi, mi piace ragionare e parlare. È vero? È vero? No, secondo me in realtà è vero, però è molto distante dallo stereotipo che c'è di Capello. Appunto, no? Questo mi sorprende. No, Capello è un duro e da questo punto di vista secondo me Capello e Conte sono dello stesso partito, della stessa categoria dello spirito, cioè sono quegli allenatori che utilizzano la leadership in maniera anche violenta ovviamente dal punto di vista verbale in certi momenti, no? Che hanno il polso della situazione e lo usano tutto rispetto ad altri allenatori che sono magari un pochino più morbidi. Magari sono autorevoli senza essere autoritari. Ecco, nel caso invece di Capello e Conte questo aspetto viene assolutamente portato avanti e fa abbastanza ridere. Però poi in realtà se tu parli con Capello lui ti dice sempre che, per esempio, io penso alla gestione che aveva avuto su Cassano, no? Era un alternarsi di di carota e bastone. Probabilmente un castigo di questo tipo, è vero, lui non l'avrebbe dato. Ma poi ti ha spiegato perché. Però per come se c'è un allenatore molto duro, cioè almeno come idea, come impressione, certo, come immagine, è lui. Quindi sentir dire: ah, ma Conte che cattivo che è, io gli allenatori invece, i giocatori. Sono un sessantottino, facciamo ora di religione, peace and love, figurati. Non ci credo più di tanto. Ma secondo te un castigo così serve? Cioè una presa di posizione come questa, una cancellazione di riposo? Di Conte mi fido. Per me Conte ad oggi è inattaccabile, e quindi se fa questa scelta è perché evidentemente lui ha il polso della situazione e capisce che questa scelta è giusta. Certo, il rischio c'è, il rischio c'è, perché è chiaro, è evidente che questa è una squadra che ha vinto tanto, che potrebbe anche a un certo punto dire: sai che c'è, mister, noi abbiamo un vantaggio enorme sulla seconda, abbiamo vinto gli ultimi due scudetti, ci impegniamo dalla mattina alla sera, ma perché ci devi rompere le scatole così? Cioè, questo rischio c'è. Però evidentemente, ma era successo già un'altra volta che Conte li aveva convocati alle 8 del mattino, no? Dopo, sì, mi ricordo. No, ma evidentemente ha il polso della situazione è totalmente in mano, cioè uno che fa così vuol dire che, cioè, metti in chiaro: qui comando io, voi fate quello che vi dico io, la società sta dalla mia parte, quindi la sensazione è questa. Poi fra l'altro cioè, secondo me c'è da dire che appunto non è la prima volta che succede tutto questo, e c'è una società, la Juve, che da sempre è una società che da questo punto di vista dà forza all'allenatore. Se l'allenatore è forte e anche un po' autoritario, la Juve gli dà forza. La famosa battuta di Cassano, che non era veramente una battuta offensiva, anzi, è quella dei soldatini, no? Ah, sì, quando lui aveva detto: io non sono un tipo da Juve perché lì vanno di moda i soldatini. Non era una cosa, ve lo posso assicurare, poi si sono anche chiariti, quindi è una polemica finita, morta e sepolta da un anno e mezzo. Ma veramente Cassano lì intendeva dire: io non ho avuto nella mia carriera quel tipo di mentalità, di cattiveria agonistica, di regolarità, di stare a seguire le regole giorno per giorno, cronaca, che si richiede, quindi era quasi un complimento che veniva fatto, no? E questo è vero, la Juve è questo, e Conte questo tipo di discorso lo può fare anche a una squadra che oggettivamente ha tutti i diritti di andarsi a fare pure una cascia e pepe, potrebbe farlo, certo, no? Con quei punti di vantaggio che ha e i due scudetti vinti, potrebbero fare pure la gita lunedì mattina tutti insieme. Stare in montagna a Sestriera, a fare due discese. No, ma Cassano non è mai stato un giocatore da Juventus. Fosse diventato invece, al contrario, di converso, un giocatore da Juventus, allora sarebbe stato stabilmente uno dei primi 4-5 al mondo, cosa che non si è verificata. Cassano, Vincenzo da Taranto, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo sapere il fatto degli arbitri, no? Siccome non sanno più cosa inventarsi adesso, moviola in campo, spray per la barriera. Io non ricordo, io sono del 61, ma ai tempi di Benetti, Rivera, non ricordo che c'era tutto questo casino con gli arbitri. Io volevo sapere: ma sono i giocatori che sono femminucce oggi? Che cosa è cambiato? Io volevo è cambiata molta più TV, sono cresciuti enormemente gli interessi. Poi questa storia mi sembra si faccia molta letteratura su questa storia della linea tracciata per terra per la distanza della barriera. A me sembra a tutto sommato mi sembra una buona idea, però quello degli arbitri è un altro degli argomenti preferiti di Pierluigi Pardo. Io sì, lo so. Mi piace molto, veramente. Senti, mi fa da morire, lo so. Quasi evitatemi la figo. No, ma ti dico la verità, gli arbitri è chiaro, se ne parla da sempre, no? Se ne parla da sempre. E ha ragione, per esempio, Graziano Cesari ieri sera ha detto una cosa che secondo me non è sbagliata: le partite di calcio spesso vengono decise dagli episodi, e quindi è nella natura stessa del gioco del calcio che se ne parli. La strada ci sarebbe, ma questo International Board non ci regala questa gioia, la strada della moviola in campo, per almeno per quelle situazioni metriche, per quelle situazioni misurabili, certo, sarebbe una svolta. Io non voglio la moviola in campo per i contatti, perché io non voglio togliere all'arbitro la discrezionalità di poter dire, bravissimo, se una spinta è da rigore o non è da rigore. Lì ci deve essere l'arbitro che si assume le sue responsabilità e decide. Ma su una serie di cose, tipo il cross famoso per il gol di Peluso di Roma-Juve, fuori o dentro, palla dentro, palla fuori, palla dentro, fuori palla gioco, fuori. Poi fuori gioco parliamone, però sugli altri, su tutto il resto la penso preciso preciso come in realtà te, la Moviola, la Moviola lì non chiariva sul gol di Peruso, non chiariva, no, però magari il sensore dentro al pallone sì, in quel caso, ma allora qual è il problema? In quei casi, questi sono gli unici casi, le uniche fattispecie in cui mi sembra all'alba del 2014 normale un utilizzo moderato della tecnologia, ma guai a toccare la discrezionalità degli arbitri, perché lì non sarò mai d'accordo. 800240024 traffico, Ferdinando da Roma, poi aspettiamo un ospite. Ho rifiutato tre volte la Juve. Per varie situazioni non sono mai andata alla Juve perché ho un'idea che lì vogliono solo i soldatini. Tutti convocati. Certo, siete tutti convocati ogni giorno. 800240024 come Ferdinando da Roma. Buongiorno. Buongiorno. Volevo dire due cose. Prego. Uno su Fabio Capello, ha ragione Pierluigi Pardo. Se c'è uno che non può parlare di severità è proprio Fabio Capello. Io come allenatore sei un po'. A noi ci ha lasciato in Serie B e dopo quello che è successo nella Juve e se n'è andato. Lui ha usufruito di quello che ha fatto Moggi e poi ci ha lasciato quando è andato in Serie B. E poi un'altra cosa, volevo sapere lei che cosa pensa di Bonucci centrale. Io è due anni che dico che non può giocare centrale nella Juve. Beh, insomma, mi sembra però Ferdinando che i risultati di questi due anni non siano così deludenti. Io continuo a pensare che il giocatore barometro della Juventus, quantomeno del reparto difensivo della Juventus, sia Barzagli. E Barzagli, se hai uno così solido, certo non è un fenomeno, ma è uno così solido, insomma, dà così, permette anche a Bonucci di qualche volta di coprire i suoi limiti. Quindi quanto al discorso su Capello ci ha lasciato, eccetera, eccetera, glisso volentieri. Sì, sì, beh, come l'abbiamo detto, sono d'accordissimo su Barzagli. Bonucci secondo me è un giocatore eccelso dal punto di vista tecnico per essere un difensore, e qualche volta fa qualche errore proprio per la troppa sicurezza tecnica che ha, bravo, nel senso che è uno bravo, che sa di essere bravo, e qualche volta ha delle amnesie che nascono proprio da questo eccesso di sicurezza. Però per esempio è un giocatore che quando la Juve si trova senza Pirlo, l'abbiamo visto spesso questo tipo di situazione, ha il compito di impostare direttamente da dietro, diventa una sorta di playmaker sostitutivo di Pirlo. Quindi giocatore, a me piace Bonucci. Poi sono d'accordo con te che Barzagli del reparto difensivo, i tre difensori della Juve sono eccezionali proprio perché si completano, certo. Perché Bonucci ha la tecnica, Barzagli ha un acume tattico che secondo me è superiore agli altri due, Chiellini ha comunque una fisicità, sì, una forza, sì. Un po' da calciatore inglese. Il vecchio Barzagli è quello che gli dà equilibrio e dà anche sicurezza agli altri due. Allora, la squadra del momento, come caro Pierluigi Pardo tu ben sai, è il Verona nel derby con il Torino, direi, nel rapporto prezzo-risultato. Allora, direttore generale del Verona, Giovanni Gardini, con noi. Buongiorno. Buongiorno a lei. Sentami, per favore, mi dà un titolo, non so, dica adesso vogliamo l'Europa, oppure se tu non vai ai mondiali ti faremo il Paraguay, oppure vendiamo i turbe per 100 milioni, mi dica qualcosa così. Il titolo oggi, purtroppo, seguendo anche avendo il piacere di colloquiare con Pierluigi Pardo, è bellissimo, bellissimo servizio che hanno fatto ieri sera a Tiki Taka su Luca Toni. Penso che le parole per questo ragazzo non siano sufficienti, e quindi per fortuna la vetrina per lui in questo momento si è strameritata, in sostanza. Ma lui ci crede nel mondiale? Ma io credo che Luca abbia dimostrato che ogni qualvolta abbia fatto qualcosa l'abbia fatto perché ci credeva, e quindi anche la sfida di venire a Verona ad inizio stagione sulle insistenze dell'allenatore Mandorlini e del direttore sportivo Sogliano sono state proprio quelle, perché ha intravisto la possibilità di fare qualcosa di molto, di nuovo, di diverso, di particolare, non nel solito ambiente, in sostanza. Secondo te ci va, Pierre? Secondo me ci sono delle possibilità. Io credo che dipende un pochino anche da quello che succede fra Fiorentina e Udinese stasera, il discorso dell'Europa League, perché ovviamente per quanto riguarda il Verona l'anno prossimo, sul discorso dell'eventuale qualificazione all'Europa League. Per quanto riguarda invece il discorso di Toni sul Mondiale, io penso che sia difficile, però se è vero che al Mondiale tu hai bisogno di 15 giorni di grande rendimento e non di una stagione intera, secondo me aumentano ulteriormente le possibilità di uno come Toni, perché è uno che ha esperienza, è uno che certamente quelle partite lì le ha già giocate, è già stato campione del mondo, insomma può essere un backup. La tenuta sui veterani, il problema, il punto interrogativo può essere la tenuta per 9 mesi, no? Per tutta la stagione, ma su un periodo molto breve la forza del giocatore e l'esperienza del giocatore nella singola grande partita diventa ancora più importante. Sì, poi, secondo giro me... i complimenti per il servizio ieri sera a Francesca Benvenuti, che veramente ha fatto un affresco eccezionale. La storia di Toni è una storia bellissima dal punto di vista umano, prima ancora che dal punto di vista calcistico. Sappiamo che c'è stato un grande dolore, ma la capacità, la forza di reagire anche attraverso il calcio a questo grande dolore mi emoziona, mi commuove, e penso che veramente debba vedere tutti, non soltanto chi tifa per l'Hellas, a tifare per Toni, perché è veramente una grande persona. Senta, Gardini, i Turbe, insomma, sappiamo quale sia la formula, quindi del Porto, diritto di riscatto del Verona, 15 milioni, quanto vale oggi questo giocatore? So che sono un po' diretto e molto banale, però mi sembra davvero una superstar, cioè uno che comunque ha i numeri per diventarlo, non in questo momento, ma può diventare un giocatore interessantissimo. Il prezzo lo fa chi, in questo caso non chi vende ma chi compra, perché sì, le regole di mercato sono purtroppo queste. Noi abbiamo questo diritto che chiaramente eserciteremo e poi aspetteremo per vedere quello che succede. In sostanza abbiamo presentato, grazie all'intuizione del direttore sportivo, uno dei talenti più importanti, perché poi non dimentichiamoci che in squadra nostra abbiamo tenuto fino a gennaio Giorginio, abbiamo 91, Albertazzi 91, Cigliano 92, Turbe 93, quindi abbiamo, grazie al lavoro dell'allenatore, presentato qualcosa al campionato che magari di un certo spessore, di un certo valore anche patrimoniale, in sostanza. Sì. Su Giorginio chi ha fatto l'affare? Ma io credo che in queste cose l'affare lo facciano, se è affare, se lo fanno tutte e due. Mi dispiace che poche squadre italiane abbiano realmente creduto alle capacità di questo giocatore, che noi abbiamo avuto modo di apprezzarlo per più anni, e credo che il fatto che abbia giocato a Verona l'abbia sottostimato per quello che è il suo reale valore, il suo reale potenziale. Quindi tante volte guardiamo molto spesso all'estero, quando magari invece abbiamo in casa dei giocatori che possono costare meno, ma possono anche se provenienti da continenti diversi, hanno dei valori assoluti fuori dal normale. E la storia di Giorginio è altrettanto valida quanto quella di Toni, per come è arrivato, per quello che ha fatto, per quello che ha raggiunto, e la soddisfazione che sia andato in una grande squadra come il Napoli. Quindi è stato bravo il Napoli a avere l'intuizione di prenderlo in questo momento. Un'ultima domanda secca, perché ho ancora 20 secondi. È l'ultimo anno in coppia con Sogliano per lei, Giovanni Gardini. Sappiamo che Sogliano è in orbita Milan, si parla molto di Sogliano al Milan. Mercato dirigenti. Io credo che a Verona si sia iniziato un certo tipo di rapporto con il presidente Setti quando abbiamo cominciato tutti e tre insieme l'anno scorso. Penso che questo rapporto non sia arrivato al capolinea per nessuno dei tre. Noi ci teniamo stretti questi 36 punti, frutto del lavoro di uno staff di prim'ordine che prende dal presidente in giù a tutto all'ultimo dei collaboratori, perché ritengo che soltanto quando hai un'armonia generale che è dentro e fuori dal campo puoi pensare di ottenere un risultato. Quindi Sogliano rimane lì, tipo. Lei mi dice rimane. Io faccio fatica a sapere quello che faccio io domani, quindi questo non posso certamente, certo. Però credo che ci siano i presupposti per continuare, rimanere e proseguire questo tipo di rapporto e questo lavoro, che è stato con risultati fuori dal comune, sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista... questo stiamo vedendo, è bravissimo quel Mandorlini. grazie Giovanni Gardini. Pier, ci sentiamo domani? Sì, chiaro. Amico, scappiamo. Domani sapremo la prima finalista di Coppa Italia. Eh? Certo. Senti che notizia che ti do. Come ti fa 4 anni vado a fare un libro e ti dico. Vabbè, ciao. Ciao Pier. Un abbraccio. Tutti convocati. Altri risultati da Sochi, niente finale per Federico Pellegrino, l'azzurro è arrivato ultimo nella sua semifinale dello sprint a tecnica libera sci di fondo. Gianluca Milano, buongiorno. Buongiorno. Dica. Volevo fare due osservazioni veloci, una prego. Su Conte e una su Mourinho. Sì. Allora, da premettere che io sono un grandissimo estimatore di Conte, oltre ad essere tifoso juventino. Però non sono un fanatico, ma ritengo uno sportivo. E mi sembra che un po' adesso stia un po' esagerando anche lui. Perché con tutti i meriti che lui ha, perché da 30 anni che seguo la Juve, io ho 41, da quando ero bambino, non ho mai visto la mano dell'allenatore come in questa squadra. Però un allenatore deve anche sapere fare mea culpa e non solo dare degli input, dei stimoli quando si vede un po', diciamo, l'ombra di un'altra squadra che si sta avvicinando, che poi non è così, perché comunque... Beh, però Gianluca, lei non ha visto, magari non lo ricorda bene, ma no, insomma, lo ricorderà. Mi sembra che la mano di Lippi si vedesse, quella di Capello si vedesse, non erano allenatori come atteggiamento molto diversi da Conte, un luogo comune molto, molto vecchio, molto banale, si parla di sergenti di ferro. Sono allenatori di grande carattere, sono allenatori che vogliono mettere in chiaro i rapporti di forza all'interno del gruppo. Poi lei dice sta esagerando, probabilmente sì, però volutamente, lo dicevo ieri, lo confermo e lo penso davvero, quei due gol presi a Verona, questi 5 gol in 7 partite che la Juventus ha subito senza pagare grande dazio, poi in realtà, perché basta leggere la classifica, per Conte sono utili, proprio perché sono quei numeri che gli permettono di alzare l'intensità della corrente, perché a guardare la classifica, francamente, a proposito di numeri, è molto difficile, no? Molto difficile alzare l'intensità, alzare il voltaggio, alzare la tensione, alzare quello che vuole, quando vedi Roma più 9, una partita in meno, la Roma pareggia al derby, la Juventus ha vinto 3-0 la sua partita, quindi quei 9 si leggono 10, perché vale il confronto diretto in caso di arrivo a pari punti. Dunque in caso di arrivo a pari punti la Roma dovrebbe vincere 4-0 per avere questo vantaggio ulteriore sulla Juventus. Insomma, sono tutti numeri che dicono: ma come fa, come può Conte in questo momento provare a rimotivare il gruppo? Queste smagliature io credo a Conte siano estremamente utili, anche e soprattutto in prospettiva Europa League. Restano 3 possessi, Matt Jennings da lontanissimo sbaglia la tripla, 5 secondi, 4 secondi, sbaglia anche Hunter, il banco di Sardegna Sassari per la prima volta nella sua storia vince la Coppa Italia ed è l'edizione 2014, e per l'anno prossimo quel tondino tricolore sarà sulle canotte bianco-blu della squadra sarda. Immaginiamo, coach, un'isola intera che adesso starà già festeggiando. Immaginiamo, coach, un'isola intera che adesso starà già festeggiando. Chissà quante volte Meo Sacchetti ha risentito questa telecronaca, sul serio oppure nei sogni. Meo Romeo, re del Colosseo, ciao. Ciao, ciao. No, beh, onestamente l'ho rivista qualche volta. Poi una l'abbiamo giocata e l'altra sì, L'abbiamo vista. Un po' di sensazioni positive fanno bene rivederle, sicuramente. Sì, tanto hai l'ombrello per... sei ad Ankara, quindi sì, Sassari, festeggiamenti. Ieri dicevo, quanto orrei in questo momento essere a Sassari per vedere cosa succede lì. Rapidi festeggiamenti, aereo, Ankara, Eurocup, quindi... Guarda, lo sapevamo e avevamo un progetto di due situazioni: uscire alla prima partita, ritornare a Sassari e ripartire per Ankara alle 4 del mattino. Probabilmente i ragazzi hanno detto alzarci alle 4 del mattino per partire non va bene, cerchiamo di vincere contro Milano, hai capito? L'hanno giocata su questo. Avrai l'ombrello aperto per i complimenti che ti arrivano. Pozzecco, io lo amo, ma penso che dopo aver portato Sassari dalla Lega 2 a vincere la Coppa Italia debba essere considerato il più grande, unico Meo. Belinelli, complimenti a Sassari, è un super Meo. Elisabetta Canalis, vabbè, lasciamo stare. Riva, che favola, Gigi Riva, questa Dinamo sembra il Cagliari dello scudetto. Adesso vi diranno, i continentali vi diranno, ma come vi permettete di vincere? Te l'hanno già detto? No, non ce l'hanno già detto, è logico che dopo queste 3 partite arrivano i complimenti, perché onestamente l'ho già detto dopo la partita di Milano, che Milano in una partita si può battere, logico che è successo un po' qualcosa di particolare, perché noi abbiamo giocato senza il nostro centro titolare, sembrava quelle partite che dicevano sì, si giocano, si allarga, si restringe questo gap, però poi alla fine si portano, però quando poi arrivi alla fine a giocare quelle partite agli ultimi 5 minuti per giocartela, la squadra che ha più pressione alla fine paga, e noi siamo stati bravi ad arrivare col punto lì, e poi sai, quando poi vinci di 2 punti è una palla, un canestro, decide qualcosa. Sì, decide magari Drake Dinner. Ieri ne parlavamo con Pardo, insomma, se hai presente quella la solita storia, se c'è un giocatore al cui tiro dovessi affidare la mia vita, chi sceglieresti? Drake Dinner, io in questo momento lui, insomma. Certo. No, beh, lui ha fatto effettivamente un secondo tempo di alto livello, anche perché noi la forza ci è stata data quando siamo andati in riposo, eravamo sotto di 8 facendo 1 su 14 da tre punti, e allora sai, ti credi, dice, sai, se iniziamo a fare un po' canestro, a difendere un pochettino meglio, ce la vogliamo giocare. È stata così e poi ce la siamo portata a casa. Quella ci ha dato la spinta per poi fare la partita che abbiamo fatto seguenti, sia con Reggio Emilia che specialmente con Siena. Sì, certo, poi vincere la Coppa Italia, ma non in modo banale, battendo Milano, padrona di casa, designata vincere lo scudetto in casa sua, sul palcoscenico. Poi dicono, abbiamo sentito troppo la pressione, vabbè, ma ragazzi, la pressione si sente, non è che a questo punto non hanno più alibi, secondo me, a Milano. Poi batti in finale i campioni d'Italia, cioè vince la Coppa Italia sì, ma però vincerla con l'Amplein è qualcosa di ancora diverso. Beh, sicuramente ci dà ancora più valore questa cosa qua, perché hai giocato contro due squadre che non una ha tutto per dominare questo campionato e l'altra ha dominato i campionati passati, è sicuramente un'altra squadra, però sai, hai delle occasioni e mi hanno insegnato che quando ci sono le occasioni bisogna prenderle, siamo stati bravi per questo, poi onestamente in finale ce lo siamo meritata questa vittoria. Senti Meo, questa è un'ultima cosa che ti chiedo, è un percorso, no, che avete iniziato a Sassari, non è un lampo nel buio, perché ho l'impressione che sia qualcosa, anzi sono certo che sia qualcosa di voluto, costruito, ti dico programmato, perché programmare una Coppa Italia è qualcosa di difficile, però è un percorso di crescita. Prima parlavamo di Conte, deve rimotivare i suoi giocatori eccetera, questi adesso come li rimotivi? Beh, io penso che i giocatori poi quando provino il successo e la vittoria sia una medicina molto importante, perché poi sai, il gusto di questo ti deve portare a hai provato questo, vorresti provarlo più avanti, è logico che non sarà facile raggiungere qualche altra cosa, però penso che questa sia una bella molla che hanno i giocatori per il proseguo. Bisogna vedere appunto la testa, ci deve essere la riprova sotto questo, hai capito? Perché non è che abbiamo fatto questa cosa qua e poi è finito il campionato, ci aspettano ancora delle partite per raggiungere sia il discorso dei playoff, vediamo anche il discorso dell'Eurocup e poi vediamo. Adesso ce la godiamo, da domani da oggi stiamo già pensando alla partita di domani qui ad Ankara e poi penseremo a Cremona quando torniamo a casa. E poi una per volta, c'è una cosa che mi manda al manicomio, tu sei stato uno delle star della nazionale italiana più forte di sempre, a me manda al manicomio vedere uno come Travis Diner che in nazionale gioca in un modo, a Sassari gioca in un altro, posso dirti. Bah, onestamente, per essere onesti, noi Travis lo sappiamo che giocatore è, quest'anno onestamente quando è arrivato aveva avuto un po' di problemi fisici, lui non ha fatto una preparazione, poi sai, non aveva mai fatto un'estate di lavoro, quando ha iniziato un po' ad ingranare si è fatto male anche alla caviglia e se lui non è a posto fisicamente non riesce a esprimere questa sua potenzialità, adesso ha iniziato a essere un pochettino in confidenza e poi gioca. Sì, poi lo conosciamo. Meo, ti ringrazio, ti abbraccio, complimenti ancora. Dai, ciao. Ciao. Grazie a Meo Sacchetti, allenatore di Sassari. Sassari in cima in questo momento all'Italia dei canestri. Che c'è? Che succede? Filippo Maria Ricci, tanti auguri. Oh, grande! Così adesso lo sa tutta Italia che è il tuo compleanno, Grazie, ma figurati, ci mancherebbe. Siamo quasi a mi chiuso di trasmissione, era giusto per farti gli auguri come si conveniva. Poi ci sentiamo per la crisi profonda dell'Atletico Madrid. Ma no, ma non sì, è così. Anche domani, vediamo stasera come finisce il derby. Sì. No? Ma e derby poi non ha senso. Non ha senso, no, è già finito. Derby non ha senso, però è sempre un derby, non è che possiamo far finta di niente, no? No, non possiamo far finta di niente, però il risultato è in cassaforte e i gufi ovviamente ci stanno, i gufi milanisti sono appollaiati intorno all'Atletico Madrid perché adesso un pensierino ce lo fanno. Ciao. Beh, sì. Ciao, auguri, grazie, oh, grazie tante, Ci mancherebbe. Ciao, Filippo Maria Ricci. Franco Piantelli, autore di questo programma, Roberto Scaltritti in regia, tutti convocati domani dopo il giro delle 14. Forza Cristo, 2:06:29, il secondo e medaglia d'argento. Ultime curve per Zöggler, ultime curve prima della leggenda, il primo Zöggler, sicuramente medaglia, Armin Zöggler.